Pensavo che almeno il venerdì, l'unico giorno in cui esce di casa per andare in moschea, le fosse consentito girare col burqa. Io rispetto l'ordinanza, sono qui da 10 anni, non è contro la mia religione, però mia moglie non può essere guardata dagli altri uomini. Sempre dal Corriere della Sera, una citazione è questa. Luigi Ferrarella, a pagina 24, ne parla. È il primo caso di stalking, cioè le molestie, in cui non sono, un giudice si è pronunciato non per, che ne so, una relazione finita, in genere l'uomo che perseguita la donna, purtroppo spesso arrivando anche a gesti estremi. In questo caso fa stalking al capo che l'ha licenziato. La vicenda è di una casa farmaceutica, c'è stata una ristrutturazione, una cessione di ramo d'azienda, uno dei dipendenti ha iniziato a minacciare un dirigente dicendo minacce di morte, poi seguendo dove andava, i luoghi che frequentava, ecco l'ordine del giudice, è vietato per quel dipendente, ex dipendente, avvicinarsi al manager. Il primo caso di stalking con il giudice che ordina al lavoratore licenziato di non avvicinarsi più all'ufficio del manager, di star lontano da casa sua, di andare via dai luoghi frequentati nel tempo libero dai suoi familiari. Ne parla Luigi Ferrarella sul Corriere della Sera. La segnalazione conclusiva è il titolo della Gazzetta dello Sport, Calcio da pazzi. Ragazzi, ci sono paginate 4 e 5 del Messaggero, per esempio, per quello che è avvenuto domenica scorsa, lo sappiamo, Lazio-Inter, con la vittoria dell'Inter, i tifosi della Lazio che esultavano ai gol dell'Inter perché così lo scudetto probabilmente lo vincerà l'Inter, o comunque era un modo per andare contro la Roma. Calcio da pazzi, minacce di morte al presidente Lotito, Oliviero Bea sul Fatto Quotidiano che parla di calcio vergogna. I politici che hanno fatto interpellanze, interrogazioni parlamentari, politici in campo, Roma truffata, il Siena che ora dovrà affrontare l'ultima giornata l'Inter, il presidente del Siena, mezza Roma, è romanista, dice: noi siamo già in Serie B ma darò 2 milioni di euro ai miei giocatori se battono l'Inter. Insomma, il calcio è impazzito e il campionato non è ancora finito. Trovate questo dibattito davvero sviluppato ovunque sui giornali. La vergogna, qualcuno dice, avvenuta domenica all'Olimpico. Ci fermiamo. Scaiola deve dimettersi, secondo voi? Dovete votare su radio24.it. Le 8:17 minuti, siamo qui in diretta. Eccoci, 24 mattino, e c'è la nostra Deborah Rosciani, già pronta. Soldi e dintorni. Scalpitante. Eh sì. Pronta a fare benzina. Sto carburando. A fare benzina. Mi è piaciuta questa. È venuta fuori di getto così, con la mia solita verve, fantasia del mattino. Vabbè. Parliamo di benzina ancora una volta, un tema che anche la nostra Valentina Furlanetto ha affrontato settimana scorsa a Soldi e Dintorni, intervistando, lo ricorderete, Luca Squeri, presidente della Federazione Italiana dei Gestori e dei Distributori. Il tema era sempre lo stesso, i continui aumenti del prezzo dei carburanti che nell'ultimo anno, dopo i forti cali dell'anno scorso, hanno ripreso rovinosamente a salire. Ieri è arrivato un nuovo monito delle associazioni dei consumatori che denunciano la solita stangata a carico delle famiglie, e c'è da dire, c'è da ammettere che fare il pieno è diventato di nuovo particolarmente oneroso. Il petrolio sta viaggiando ai massimi dall'ottobre del 2008, fra gli 86 e gli 87 dollari al barile. Ieri la super ha toccato 1,44 euro. E allora, lo sapete, è stato lanciato nei giorni scorsi anche il piano del Ministero dello Sviluppo Economico per razionalizzare la rete degli impianti di distribuzione. Si prevede anche il blocco settimanale degli aumenti, ma noi oggi proprio di impianti parliamo. Perché? Perché c'è stata una notizia che è circolata su numerosi giornali in questi giorni, che ha suscitato ovviamente anche la nostra curiosità, la storia di un distributore di benzina che è all'interno di un iper, la grande I di Castelfranco Veneto, e noi il titolare di questo iper, il direttore di questo iper, lo abbiamo rintracciato. Si tratta di Roberto Simile. Intanto lo saluto. Direttore, buongiorno, benvenuto a Soldi e Dintorni. Buongiorno a tutti voi. Buongiorno. Allora, la sua è una storia molto interessante, soprattutto per coloro che abitano in quel circondario, naturalmente, perché è la storia del distributore più conveniente, meno caro d'Italia, e in giornate come quelle a cavallo del 1° maggio ha venduto qualcosa come 80.000 litri di carburante, ma in realtà voi siete partiti a luglio e da quel momento non avete avuto tregua. Perché, direttore? Perché i prezzi sono bassi, riusciamo a stare in concorrenza molto bene confronto alle pompe tradizionali, perché si vede che gli piace ai clienti risparmiare. Ci faccio subito un esempio: un euro di super ieri, un euro di benzina ieri, 1,44 euro. Da voi quanto spuntiamo? Allora, oggi il diesel siamo a 1,139 e la verde la a 1,285. Sì, la super non esiste più, infatti. Sì, la super. Sì, stamattina ho bevuto qualcosa, evidentemente, un po' di benzina anch'io, che però era andata male. Ho letto che al vostro distributore e direttore sono arrivate persino Porsche, Ferrari. Diciamo che in genere i titolari di queste auto non dovrebbero essere preoccupati più di tanto da spendere qualche euro di benzina in più per un pieno. Invece abbiamo capito che il tema del pieno di carburante più caro infastidisce proprio tutti. Qual è la sensazione che avete colto fra tutti i vostri clienti in questi giorni? Ma guardi, no, quando siamo partiti soprattutto a luglio, io mi sono divertito per un paio di mesi insieme con i miei collaboratori a aiutare i clienti a fare benzina, perché comunque non erano abituati con il self, quindi prima erano abituati a consegnare le chiavi al gestore, e facevano benzina e poi pagavano. Adesso c'è il processo all'incontrario. Sicuramente all'inizio hanno fatto molta fatica, e questo è stato anche soggetto a colonne molto lunghe di macchine che aspettavano per fare benzina. Oggi invece sono diventati veramente tutti bravi, ma bravi bravi, e il che porta anche a fare i conti con clienti che hanno, non so, delle macchine importanti, come diceva lei, la Ferrari, il Porsche eccetera, ma penso che dal momento in cui uno fa 50 euro di benzina ne può risparmiare 7-8 euro, penso che li faccia gola a tutti. Infatti, perché la vostra iniziativa nasce proprio dal fatto che volevate in qualche maniera rendere più conveniente il viaggio di tutti i clienti dell'ipermercato, quindi proponendo una benzina più basso costo, chiaramente in qualche maniera ripagavate anche il viaggio del venire da voi a fare la spesa, direttore, no? C'era un po' anche questa filosofia. I nostri clienti sono già che all'interno dell'ipermercato risparmiano. Logico che dovevamo aiutare anche coloro che venivano da lontano a riuscirli a almeno pagarsi il viaggio. Infatti, che è un po' la filosofia che sta dietro a tutti gli altri distributori che sono riusciti fino a questo momento a collocarsi all'interno dei centri della grande distribuzione. Ce ne sono un po' in Italia, non sono però ancora moltissimi, quindi la lascio concludere. Sì, sono pochi, le dico la verità che noi abbiamo intenzione, comunque visto il successo dei due distributori che abbiamo aperto, quello di Verona che ha fatto un anno l'altro giorno, noi che abbiamo aperto a luglio, l'intenzione è quello di aprirne ancora, ma tutti adiacenti agli ipermercati, sempre per il motivo che abbiamo detto prima. Direttore Simili, le chiamano le pompe bianche, le pompe low cost, allora ci deve spiegare esattamente la dinamica, il meccanismo grazie al quale riuscite a proporre ai clienti un prezzo così basso, comunque molto più conveniente rispetto a quello praticato dalle cosiddette grandi sorelle, dalle grandi marche della distribuzione della benzina. Come si fa? Da noi è semplicissimo, facciamo nient'altro che ciò che facciamo da ormai 37 anni in azienda: acquistiamo dal miglior offerente, facciamo la contrattazione, non abbiamo vincoli con nessuno, settimanalmente una persona preposta in azienda che si preoccupa di fare le contrattazioni ci passa i prezzi a noi. Noi andiamo a fare la concorrenza a tappeto entro un paio d'ore nel raggio di 30 km, applichiamo il prezzo più basso in assoluto. Cosa vuol dire praticare la concorrenza a tappeto? So che lei manda una ragazza nei paesi lì intorno noi in un raggio di 30 km a rilevare i prezzi dei distributori più noti. Sì, perché guardi, noi nel raggio di 30 km ce ne sono centinaia, andiamo a fare coloro che siamo sicuri che comunque si avvicinano più ai nostri prezzi, quindi andiamo a rilevarli tutti e andiamo a mettere in orizzontale tutti i prezzi di tutti i distributori e dopo decidiamo il nostro prezzo di vendita. Direttore Simili, mi racconti un po' cos'è successo fra gli altri distributori, negli altri distributori, insomma, le hanno fatto un po' di guerra, so che qualcuno insomma è venuto anche a farle visita per verificare effettivamente come potesse praticare questi prezzi. Comunque questa sua iniziativa, che è, come dire, una politica commerciale del tutto legittima, regolare, tranquilla, ha portato anche le altre grandi insegne a ridimensionare i prezzi? Guardi, qualcosa si sta muovendo, sicuramente sta succedendo ciò che è successo 15 anni fa all'interno, quando abbiamo aperto l'ipermercato, anzi l'abbiamo aperto 17 anni fa, però avevamo un'altra insegna, dopo non era andata bene, e il dottor Brunelli, che è il nostro presidente dell'azienda, ha preso in mano Castelfranco e l'ha fatto diventare sicuramente un ipermercato di gran successo. La cosa fondamentale è che 15 anni fa tutti ci dicevano, con questi prezzi bassi che avevamo all'interno dell'iper, adesso chiudiamo tutti i negozi tradizionali. Le posso garantire, io sono qua da 17 anni, che non ha chiuso tutti nessuno. I negozi tradizionali non hanno chiuso, anzi penso che grazie alla nostra azienda i prezzi nella zona si sono abbassati assolutamente da tutte le parti. Mm. E speriamo che succeda la stessa identica cosa anche per le benzine. Noi non vogliamo che chiudi nessuno, ma che si possono essere messi in condizione anche loro di poter essere competitivi. L'elenco delle cosiddette pompe bianche, io ricordo che il Codacons, una grande associazione dei consumatori, ha pubblicato sul suo sito internet l'elenco delle pompe bianche, per l'appunto, dove risparmiare fino a 100 euro annui sulle pieno. Adesso chiaramente poi dipende anche dal consumo individuale che si fa di benzina. Peraltro è stato anche abbastanza difficile poter pubblicare questo elenco, perché il Codacons ha dovuto ottenere con sostanza una sorta di licenza dal Consiglio di Stato. In ogni caso, questo elenco di distributori indipendenti, in realtà chiamiamoli con il loro nome, è questo. Direttore Simili, io fra un po' la devo salutare, ma per chi veramente volesse avventurarsi in un'avventura commerciale come questa, voi chiaramente avete alle spalle una grande struttura commerciale che vi ha supportato e aiutato, ma è così difficile secondo lei insediare un distributore indipendente in una qualsiasi località del nostro paese? Insomma, che tipo di lotte bisogna fare? Ma diciamo che è abbastanza un problema burocratico di carte e cartine ad avere sotto una copertura, anche perché comunque aprire un distributore costa, non costa poco. Bisogna avere dopo la fortuna di vendere bene per dopo ammortizzarlo in tempo breve. Questo diciamo non è così difficile, logico che in Italia tante volte anche le cose facili diventano complicate. Questo è un settore effettivamente molto delicato per tutti gli interessi che inevitabilmente ci gravitano intorno. Io ringrazio molto Roberto Simili, il direttore dell'Iper La Grande I di Castelfranco Veneto. Insomma, potete trovare questo distributore indipendente con 10 pompe self-service che rifornisce benzina verde senza marca, 1,27 euro, anche qualcosa di più conveniente. Insomma, in questi giorni un centro a Castelfranco Veneto, uno a Verona. Insomma, il Veneto pare che sia stata segnalata la regione più vantaggiosa per la distribuzione della benzina. Chiaramente non riusciremo, Alessandro, ad andare tutti là, però quantomeno a coloro che abitano lì abbiamo dato questa informazione stamattina. E allora, alle 12 ritorno sui Tango Bond. Ieri c'è stata questa simpatica visita del ministro delle finanze argentino in Italia, che ha proposto un nuovo scambio per i detentori delle vecchie obbligazioni in bancarotta, ma insomma non è che sia molto più conveniente, e però ci sono molti dilemmi fra i risparmiatori che dovrebbero fare questo scambio. Vedremo di capirne qualcosa. Noi invece parliamo della vicenda che sta coinvolgendo il ministro Scajola, la vicenda di un'acquisizione di un appartamento nel 2004, secondo alcune ricostruzioni giornalistiche, comprato anche con alcuni soldi in nero sostanzialmente. Vi chiediamo questo: Scajola secondo voi dovrebbe dimettersi? È un po' quello il quesito che si chiedono tutti i giornali oggi e lo chiede l'opposizione. Che ne pensate? Radio24.it, nell'home page ci trovate bianco o nero, lì dovete votare, oppure 800 24 00 24 se volete intervenire in diretta. Allora, le 8:33 minuti, ben ritornati in diretta e ben ritrovati da Alessandro Milan. Allora, di che parliamo? Nel nostro sondaggio di oggi parliamo della vicenda che, vedendo le prime pagine dei giornali, sta coinvolgendo il ministro Claudio Scajola, l'acquisto di un appartamento nel 2004 a Roma, in discussione, e in discussione anche le eventuali dimissioni del ministro, almeno a leggere i giornali di oggi. Il nostro sondaggio. Io soy o blanco o negro. Gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Noi vi chiediamo, secondo voi il ministro Scajola dovrebbe dimettersi? Su radio24.it dovete votare. C'è da dire che per ora stanno già votando in molti, prevalgono i sì al 79%, ma i fatti sono questi, quello che si può ricostruire dai giornali. Gli unici fatti certi: nel 2004 il ministro Scajola acquista un appartamento a Roma. L'importo qual è? 610.000 euro, dice il ministro Scajola. C'è il rogito, ho acceso un mutuo, sto pagando un mutuo per questo. Secondo invece alcune ricostruzioni giornalistiche, alcune testimonianze riportate, riprese da verbali, a questi 610.000 euro dovrebbero essere aggiunti altri 900.000 euro che Il costruttore Diego Anemone, indagato nella vicenda del G8 dei grandi appalti, avrebbe messo a disposizione, tramite l'architetto Zampolini, ai proprietari della casa, le due sorelle Papa, 900.000 euro che Scajola dice io non ho mai visto, sarebbero stati dati in assegni circolari. Le sorelle Papa invece dicono, avrebbero detto nei verbali, no, noi li abbiamo ricevuti dal ministro in persona. Insomma, questa è la questione. Poi c'è la questione politica. Oggi sui giornali anche vicini al centrodestra, Libero e Il Giornale su tutti, i titoli sono molto emblematici, sostanzialmente Scajola chiarisca oppure si dimetta, così titola per esempio Vittorio Feltri, Scajola chiarisca o si dimetta. Allora, io intanto saluto Fiorenza Sarzanini del Corriere della Sera, buongiorno. Buongiorno a voi. Voi state seguendo la vicenda da alcuni giorni, anche oggi tu scrivi le sorelle Papa, cioè le proprietarie dell'immobile, avrebbero ancora una volta confermato di questi assegni circolari 900.000 euro. Perché dovremmo credere, questa è la difesa anche di Scajola, a ricostruzioni giornalistiche, a fango che viene gettato, ma io non sono neanche indagato, dice il ministro, per esempio, ed è questa un'altra verità. A parte che le ricostruzioni giornalistiche, se si fondano su fatti, non c'è niente di male, perché esistono anche le inchieste giornalistiche, non quelle solo della magistratura, anche perché quando la magistratura manda un avviso di garanzia è giustizia orologeria, quando non lo manda allora sono ricostruzioni giornalistiche. Queste sono, c'è un'indagine che si fonda su delle testimonianze, ma si fonda soprattutto, ed è questo il punto debole della difesa del ministro Scajola, su un'operazione sospetta effettuata sul conto di Zampolini, per il quale all'inizio non si sapeva nulla del coinvolgimento di Scajola. C'è un'operazione sospetta segnalata da Banca Italia perché Zampolini deposita soldi in contanti e lo stesso giorno preleva 80 assegni in piccolo taglio, perché sono appunto 900.000 euro in 80 assegni, e la banca, la Deutsche Bank, fa una segnalazione per appunto un'operazione sospetta. Si comincia a indagare, viene interrogato Zampolini, inizialmente nega, dice che si tratta di una compravendita ma non vuole dare spiegazioni, si va a vedere dove questi assegni sono finiti, si scopre che sono finiti sul conto delle sorelle Papa, si scopre che queste sorelle Papa con Zampolini non hanno mai avuto alcun rapporto e solo a quel punto le sorelle Papa chiamate dicono questi assegni ce li ha dati Scajola. Loro di Zampolini non sanno nulla, non hanno idea. A loro questi assegni, come ripetono più volte fino appunto a portare poi tutte le prove bancarie, gli sono stati dati da Scajola al momento del rogito in un ufficio del Ministero dell'Attuazione del Programma. Quindi Scajola entra in questa vicenda soltanto alla fine. Nessuno immagina, quando viene segnalata l'operazione sospetta, che si tratti della compravendita del suo appartamento. Allora, tra l'altro, Scajola ha detto andrò dai magistrati, poi sì, andrò in Parlamento. Volevo aggiungere solo una cosa brevissima. Primo, che ci sono altri 200.000 euro per cui le signore hanno portato, che gli sono stati dati da Scajola in contanti al preliminare, e ci sarebbe anche un testimone in grado di appunto confermare questa cosa. Ma poi non si capisce perché le signore dovrebbero mentire. Allora, perché le signore dovrebbero mentire? Io saluto due esponenti politici, perché la questione si è fatta prevalentemente politica con l'opposizione. L'Italia dei Valori in primo piano che chiede le dimissioni di Scajola. Saluto Leo Luca Orlando, nel portavoce onorevole dell'Italia dei Valori. Buongiorno Orlando. Buongiorno. Così come invece Giorgio Stracquadagno del Popolo della Libertà. Buongiorno. Che anche buongiorno. Sul ilpredellino.it segue con molta passione, insomma, questa vicenda che è politica. Attenzione, scusi, sì. Perdoni, no, passione, attenzione alla ricostruzione dei fatti. Alla ricostruzione dei fatti. Intanto Stracquadagno, oggi i giornali, l'avrà letto anche lei, Il Giornale, sì. Libero, cioè molto duri, o chiarisca o si dimetta, addirittura il Corriere della Sera parla questo, mi perdoni, questo lo dovrebbe chiedere a Feltri. O a no, infatti a lei avevo un'altra domanda. Questa mattina pare... Come? Pare che ci sia un incontro con Berlusconi di Scajola e qualcuno ipotizza le possibili dimissioni. Questo deve porre Berlusconi a Scajola. Vabbè, mi dica allora. Vabbè, lei a me può porre domande su quello che dico io. E intanto quello che dico io è che la ricostruzione della collega Sarzanini mi pare che rovesci i fatti che lei stessa e il suo giornale hanno riportato. Ossia, la segnalazione sospetta alla Banca d'Italia non arriva nel momento in cui Zampolini cambia i contanti in assegni, ma al contrario, quando le sorelle Papa versano assegni a firma Zampolini sui loro conti correnti. E da lì prende le mosse la richiesta, la verifica da parte della Banca d'Italia. Il punto chiave qual è? Che dico io? Se qualcuno deve farsi dare una tangente, perché di questo si tratterebbe, Zampolini avrebbe dato a Scaiola sì, una tangente per favori resi, certo, con quali, perché trasforma contanti in assegni? È una domanda a cui qualcuno dovrebbe dare una risposta, perché la cosa è più semplice del mondo è dare dei contanti e dopodiché uno che deve comprare una casa fa un mutuo per l'80% del valore di perizia dell'immobile, perché questo viene concesso dalle banche, e paga le sue rate che, siccome la retribuzione di parlamentare di Scaiola glielo permettono, poteva pagare regolarmente, senza avere difficoltà nell'ottenere il mutuo. Si faceva dare i soldi in contanti, se li teneva lì per le sue spese personali o li metteva, se li faceva dare all'estero, e piano piano li riportava in Italia e nessuno si sarebbe accorto di nulla. Invece c'è tutto un giro di assegni che vanno da Zampolini entra con i contanti il 6 luglio del 2004, sì, esce e con, va a dare 80 con 80 assegni, 40 che vanno all'una e 40 che vanno all'altra. Dopodiché, intestati, cioè una delle sorelle e l'altra delle sorelle. Dopodiché le sorelle in tre interrogatori danno tre versioni diverse. Cioè dicono prima di aver ricevuto il pagamento degli assegni del nero, perché questa parte sarebbe il pagamento in nero, non, che non sta negli atti, nello studio del loro avvocato. Poi si correggono e dicono no, nello studio del notaio assieme al momento in cui abbiamo fatto il rogito, e dicono abbiamo ricevuto il nero con gli assegni e il bianco in contanti. Il che è impossibile, perché siccome è stato pagato con un mutuo l'appartamento, ci doveva essere un altro assegno pari all'importo del... Sì, insomma, lei dice sarebbe stato quantomeno anche ingenuo, no, Scaiola, versione, no? No, mi perdoni, sì. le sorelle Papa danno poi una terza versione, e la terza versione è quella presa per buona. Io dico che c'è un aggiustamento costante di versioni fino a cercare di rendere credibile una storia che dovrebbe invece metterci il dubbio su che cosa? Qual è il rapporto che lega le sorelle Zampolini Anemone alle sorelle Papa? Non è che qui dietro c'è un'altra transazione per altri motivi che deve essere tenuta nascosta e che coincide nel tempo con la vendita dell'appartamento, e da parte di entrambi, Zampolini è indagato per riciclaggio ed è in libertà perché il GIP non ha concesso l'arresto, ma è, come dire, gli pende un procedimento giudiziario pesante. Le sorelle Papa sono indagate per riciclaggio anch'esse e hanno tutte l'interesse di dare uno scalpo alla procura, che in questo caso sarebbe Scaiola. Gli capita Scaiola. Allora, se capitava Stracquadani era uguale. Va bene, Sarzanini, rispondi prima di sentire Luca Orlando, poi vorrei andare sulla questione politica, perché le dimissioni, insomma, perché sennò è anche difficile seguire, insomma, tutte queste ricostruzioni, non è facile farle sui giornali, figurarsi in radio. Mi pare strano, visto che questi verbali non sono stati depositati tutti e tre i verbali, mi pare strano che Stracquadanio sappia quali sono le tre versioni, che comunque non sono queste. Le sorelle non sono indagate per riciclaggio, sono semplicemente testimoni, e soprattutto non è vero che l'operazione sospetta era la loro, l'operazione sospetta era quella di Zampolini, tanto che è stata segnalata la procura di Roma nel momento in cui si è aperta l'indagine su Mondiali. Vabbè, diciamo, questa come altra versione. Allora, onorevole Orlando, perché l'Italia dei Valori chiede le dimissioni? Non è indagato Scaiola, e questo è un dato di fatto. Ci sono versioni che Scaiola smentisce, altri dicono no, è andata così, perché dovrebbe rimettersi? Facciamo la giustizia preventiva? Ma intanto vorrei chiarire che noi non stiamo parlando di fatti che sono legati soltanto a un'inchiesta giudiziaria. Nei paesi civili i fatti qualche volta vengono esposti da inchieste giornalistiche, e nei paesi civili accade che i politici dimettano quando dei fatti vengono confermati da inchieste giornalistiche, anche se ancora non si è intervenuta o si è ancora in corsa o non interverrà mai un'inchiesta giudiziaria. Lo dico perché, come sempre in questa vicenda, si cerca in qualche modo di cogliere il pretesto per attaccare la magistratura. Siamo di fronte a dei fatti che, esposti da un'inchiesta giornalistica, impongono delle risposte. I fatti sono assolutamente ripetuti ed evidenti. C'è un acquisto di un appartamento da parte del ministro Scajola per una somma che nettamente inferiore a quella di mercato, c'è una esistenza di 80 assegni che vengono pagati alle venditrici dell'appartamento al ministro Scajola, che sembrerebbero essere esattamente quello che colma il prezzo di mercato, che è molto maggiore rispetto al prezzo risultante nel rogito notarile. C'è la attribuzione di questi assegni a soggetto legato all'imprenditore che è stato beneficiario di appalti, ricordiamo, del sistema di protezione civile, appalti G8, appalti a trattativa privata senza gare europee regolari. Ecco, di queste cose noi abbiamo chiesto 8 giorni fa al politico, al ministro Scajola, che desse un chiarimento. Abbiamo anche detto al ministro Scajola: si autosospenda, chiarisca la sua posizione, risponda con riferimento a questi fatti. Ma il fatto che dica fatto. Vengo il 14 a parlare alle Camere non vi sta bene? Questo non è stato fatto, ha insistito. Dopodiché si cerca di dire che la cosa non si dice che è evidente che questi fatti sembrano riportare una responsabilità del ministro Scajola, ma si dice che sono talmente evidenti questi fatti che lascerebbero intravedere una corruzione, che sarebbe ingenuo essersi comportati così. Ma nel nostro paese siamo abituati a vedere che tante volte la ingenuità è l'altra faccia della presunzione. Però le ripeto, onorevole Orlando, Scajola ha detto vengo il 14, non vi sta bene, vengo il 14 in Parlamento. Noi abbiamo chiesto che lui si sospenda immediatamente, si è sospeso, e allora abbiamo presentato proprio oggi una mozione di sfiducia, perché riteniamo che non possa restare a fare il ministro un soggetto il quale su fatti così gravi non fornisce un chiarimento. Io soy o blanco o negro, gris no voy a ser en mi vida. Bianco o nero? Questa vicenda è una compravendita immobiliare che sta coinvolgendo il ministro Scajola, compravendita del 2004, secondo voi dovrebbe dimettersi? Questa è la domanda che vi poniamo oggi. Il rischio di dimissioni lo pongono oggi un po' tutti i giornali. Molti ci chiedono qual è il prezzo di mercato. Certo, questo è un altro dato di fatto, che il prezzo di mercato non è accertato, quello di 610.000 euro di questo appartamento. Lo stesso vice direttore del giornale ha detto: io ho intervistato Scajola, non gli credo su questo punto. Pensare che 610.000 euro sia il prezzo di mercato è pura follia. Però è anche vero che hanno venduto dei privati, uno il prezzo poi lo fa come vuole. In ogni caso, Ivo da Bergamo, buongiorno. Buongiorno. Che dice? Niente, volevo intervenire a proposito del fatto che abbiamo appena assistito a una lezione gratuita di come si evade fiscalmente in una transazione immobiliare da parte dell'onorevole PDL. Volevo ringraziarlo. Addirittura Stracquadagno ha fatto una lezione di una scuola di evasione fiscale interno al PDL. Onorevole Stracquadagno, questa vuole rispondere al nostro Ivo da Bergamo. Lei avrebbe fatto una lezione di evasione fiscale? Non capisco dove avrebbe fatto la lezione di evasione fiscale. Ho solo riportato quello che sarebbe stato logico se uno avesse voluto fare evasione fiscale e prendere dei quattrini illegalmente. Quindi non ho fatto una lezione, ho solo cercato di spiegare quali sono i fatti. Qui, guardi, c'è un equivoco su tutto, che se non c'è nessun interesse nella transazione immobiliare da molti anni, dato che le tasse si pagano sul valore catastale dell'immobile, indipendentemente dal prezzo di vendita o di acquisto, a scrivere a un prezzo diverso da quello della transazione. Quindi quello che io dico è che, al contrario, i fatti così come sono messi in piedi e ricostruiti, non da un'inchiesta giornalistica, mi permetta collega Sarzanini, ma da estratti di verbali che escono da una procura, e questo non è fare inchieste giornalistiche ma fare gli amanuensi di qualcun altro. Ecco, no, perché l'inchiesta giornalistica è fatta se uno si procaccia le notizie, va direttamente alle fonti. Se uno riceve dei verbali da un procuratore, no, dalla procura di Perugia in questo caso, e ne ripubblica degli estratti, non fa inchiesta, fa trascrizione. Non è una fonte è anche quella. Mestiere. La cronaca giudiziaria ci si procura. Io non ho dato lezioni di evasione fiscale a nessuno, ma prima di poter affermare che qualcuno delinque, bisogna sapere come si fa a delinquere. Mi spiego? Perché se dico al signore che lui, se lui mi racconta come si fa che so io, leggendo, perché ha letto sul giornale come si ruba un'automobile, non gli dico che dà lezioni di furto d'auto, è giusto? Sì. Allora, no, va bene, io vorrei pregare gli ascoltatori di non agitare forche, perché fermi, è un ascoltatore, il nostro Ivo da Bergamo la pensa così. Marco da Milano, sentiamo come la pensa Marco, buongiorno. Buongiorno, io la penso, volevo fare una domanda sì. tra guadagno. Sì. 600.000 euro, appartamento da 180 metri quadri con vista Colosseo, secondo te è un prezzo importante per una trattazione? L'abbiamo già detto Marco, non è il prezzo di mercato. Ieri veniva citata addirittura Casa e Case, l'inserto del Sole 24 Ore del 2004, che riportava addirittura alcuni stabili della zona Colosseo che arrivavano a 17.000 euro al metro quadro. Ma comunque non è il prezzo di mercato, però c'erano due privati, le sorelle Papa, che hanno venduto. Hanno venduto a prezzi stracciati? Boh, chi lo sa. Fiorenza Sazzanini, una replica ovviamente alla questione, l'amanuense Fiorenza Sazzanini. Wow. Diciamo che come dimostra il disegno di legge sulle intercettazioni, i parlamentari del PDL per la cronaca giudiziaria hanno allergia, probabilmente perché poi le cronache giudiziarie scoprono le malefatte dei politici. Quindi, dopodiché, se ci sono dei verbali che vengono verificati naturalmente, se ci sono dei riscontri, se ci sono delle testimonianze incrociate, ma sinceramente questi sono insulti gratuiti di chi non sa più che dire, non mi interessa. Allora, devo chiudere, onorevole Orlando, voi l'accusa è questa, l'attacco è a Scajola, è per insomma far incrinare un po' il governo. Berlusconi pare anche abbia detto nei giorni scorsi, attaccano, siccome non sono riusciti a attaccare me, ecco, attaccano membri del governo. Ma veramente il sito Spazio Azzurro, così come tantissimi esponenti del Popolo della Libertà, per fortuna, stanno convergendo sull'idea che non possa restare in carico un ministro a carico del quale vengono addossati fatti così evidenti e che con grande arroganza rimane al suo posto. Voglio dire poi che dall'atteggiamento che ho registrato da parte di questa guadagno c'è la conferma di un'allergia per i magistrati e per i giornalisti, con la conseguenza che quando qualche cosa viene fatta da un giornalista, un fatto viene raccontato come mestiere dei giornalisti, immediatamente diventa il giornalista dell'amanuenza del magistrato, il cerchio si chiude, come sarebbe bello, ma non è certamente questa la nostra prospettiva, un paese senza magistrati e senza giornalisti. Noi sosteniamo invece nel ripetere che abbiamo bisogno di magistrati indipendenti e liberi, di giornalisti liberi e scomodi. Ci fermiamo qui, allora grazie a tutti, l'onorevole Stracquadano, l'onorevole Leoluca Orlando del PDL il primo, dell'Italia dei Valori il secondo, Fiorenza Sarzanini, inviata del Corriere della Sera. Ripeto, oggi i giornali parlano di un incontro questa mattina stessa tra Berlusconi e Scajola, che è rientrato dalla Tunisia ieri, doveva fare una due giorni, è rientrato, era una missione ministeriale, è rientrato un giorno prima. Vi terremo ovviamente aggiornati, e i ringraziamenti anche a Sara Spreafico in redazione, Peter Bescapè in regia, dando la linea a Oscar Giannino. L'Unità d'Italia e la Lega, questo è il tema di Oscar. Ci sentiamo domani mattina.